cresce Mastro Beat. Something Left, volume 1. Qualcosa che si pensava fosse stato lasciato da parte. Vorrei soltanto restare a guardare collassare il mondo sublunare, questa realtà integrale. Il disco che propongo è dalla parte del male, il disprezzo che io provo è una forza residuale. Vorrei soltanto restare a guardare collassare il mondo sublunare, questa realtà integrale. Il disco che propongo è dalla parte del male, il disprezzo che io provo è una forza residuale. Per vocazione, provo gusto innato verso la provocazione e la gestazione delle gesta criminali che commettono il pensiero, ora si insinua nell'azione in forma di radiazione, in forma geste d'atti imponendo la mutazione di obiettivi, la permutazione dei miei mezzi coi miei fini e il pensiero della fine come fine, per processione di eventi fra loro affini, la precessione di anamorfosi linguistiche cesse quanto sublimi, immerse nei deliri e stimolo al rigetto nei soggetti poco inclini all'ascolto ragionato in ragione di quel che vivi, col volto atrofizzato bloccato in mille sorrisi di un mondo prestampato, bastardo precompilato, ma male adattato ai miei sistemi operativi, gli organi percettivi, se la mia mente va in crash. Tranquillo i miei motivi. Vorrei soltanto restare a guardare collassare il mondo sublunare, questa realtà integrale. Il disco che propongo è dalla parte del male, il disprezzo che io provo è una forza residuale. Vorrei soltanto restare a guardare collassare il mondo sublunare, questa realtà integrale. Il disco che propongo è dalla parte del male, il disprezzo che io provo è una forza residuale. Sarà l'inerzia, l'estrema conseguenza della forza che era impressa a portare a compimento quel poco che mi interessa. Mi complimento con chi ha la fonte in testa, ma complico il mio compito ed essa resta perplessa. Ho percezione che assenza d'attenzione sia requisito base per fare uno spettatore. Io non aspetto, non sconto il mio pensare, non requisisco i fatti, non faccio una riduzione. Pensi rivoluzione, rivolta verso il cuore del messaggio che è rivolta dall'interno alla realtà, trasformando nel paesaggio passaggio mentale, non certo il più condiviso, ma qua non si comprende chi sta cercando la verità, è perché manca una dose di insana complessità. Ora do complicità alla mente che delira, desidera, non mette ma attende, prende la mira. L'obiettivo nel suo centro è il suo bersaglio, distrugge la cultura se intesa come un bagaglio. Lo sbaglio, pensare di portarsela dietro in maniera inerte, valigia troppo piena da usare solo se serve. Quello che leggo e che apprezzo è come fosse un germe che si moltiplica in me e vive sotto la mia pelle. Vorrei soltanto restare a guardare collassare il mondo sublunare, questa realtà integrale. Il disco che propongo è dalla parte del male, il disprezzo che io provo è una forza residuale. Vorrei soltanto restare a guardare collassare il mondo sublunare, questa realtà integrale. Il disco che propongo è dalla parte del male, il disprezzo che io provo è una forza residuale. Nel nostro tempo, di cui ben poche cose resteranno, preferisco il concatenamento inaccessibile, parole esposte a rischio, non si arresteranno a questo semplice, futile e volgare modo di ascoltare, senza assorbimento, necessiteranno forse queste frasi sconce d'essere spiegate dai miei versi, ma nello spiegarsi del senso si attesteranno in controtempo e testeranno le teste attente e malediranno chi vuole trattenere lo scranno del potere. Io vorrei tratteggiare un'altra situazione, ma mi disciolgo e mi dissolvo fino a che non colgo che questa equazione è senza soluzione, eppure la risolvo, perciò mi ricompongo, i miei atomi ritrovano i legami della cenere e risorgo. Sarò l'ultima fenice che non cede il passo all'anoia a desistere, che quando è necessario moltiplica il malessere dell'essere per scrivere libri che verranno messi all'indice. Il calvario ora è parola che tacciata di blasfemo, non è il tempo di soccombere, ma quel che resta del mio ego è solo carne su cui incidere. Vorrei soltanto restare a guardare collassare il mondo sublunare, questa realtà integrale. Il disco che propongo è dalla parte del male, il disprezzo che io provo è una forza residuale. Vorrei soltanto restare a guardare collassare il mondo sublunare, questa realtà integrale. Il disco che propongo è dalla parte del male, il disprezzo che io provo è una forza residuale.